la vera abbondanza di personale non corrisponde sempre, anzi non corrisponde mai, ad una migliore efficienza, migliore funzionamento della macchina. Certe volte il tempo si passa a gestire le sovrabbondanze di personale, e quindi io che ho gestito per tanti anni il personale, questo l'ho vissuto direttamente, dove collocarli, come collocarli, cosa far fare, e quindi diciamo nel frattempo non si fa. Ecco, questa situazione del precariato che si è creata nella regione siciliana è un fatto storico, si comincia sempre per assunzione per un anno, poi prorogata a 3 anni, e sono già state questa esperienza del 285 di 30 anni fa, stabilizzata nell'85, poi successivamente. E quindi, scusi se faccio una fuga anche sui temi che non direttamente per cui mi ha investito, no? Ma non posso non pensare che l'assessore al lavoro che sta avviando questi stage, 8.000 stage, non pensare che lui non sappia che in passato tutto è cominciato con queste forme di assistenzialismo, e quindi si andava certamente alla stabilizzazione. E non è vero che diciamo alcune forze politiche hanno partecipato solo ai processi di stabilizzazione. Il consociativismo, lo dice una memoria storica, che ha caratterizzato sia le fasi della stabilizzazione, ma anche le fasi della instaurazione di queste forme di assunzione di personale non coerenti con la logica costituzionale.